piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Un'ultima domanda. Posso chiederti, Billy, che genere di sensazioni hai quando danzi? Non lo so. Una bella sensazione. È come se sparissi. Cioè, sento che tutto il corpo cambia. Ed è come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Facile prendere il volo, quindi o vado sul balcone di casa o, se sono lontana, cerco le finestre aperte sulle scale dei condomini. Da livello zero non mi alzo quasi mai. Ora sono pronta. È arrivata un'altra decisiva folata di vento a favore. È grecale e va bene per volare. Entro in casa un attimo, mi metto la giacca a vento, lo zaino sulle spalle, riesco. Salgo di nuovo sul davanzale, stavolta in piedi, e difficile a farvelo capire a chi mi ascolta, difficile per me dirlo senza dover attingere nel più profondo dei miei pensieri più nascosti, più intimi, più personali. Ma esattamente quando parlo al microfono della radio, e lo faccio da quasi 35 anni, e mi sembra impossibile sia passato tanto tempo, provo esattamente questa sensazione. Quello che racconta il piccolo Billy Elliot quando confessa perché per lui è così importante dover danzare, perché quando danza si astrae dal mondo e gli sembra di volare. Quello che racconta una nostra ascoltatrice di una puntata persa nel tempo, di anni fa, che racconta come per lei sia consapevolmente abituale uscire dal proprio corpo quando dorme. Entrambe le situazioni sono situazioni che sembrano appartenere al mondo onirico, al mondo dell'irrealtà, in un momento in cui sembra prevalere il senso della concretezza, i nostri problemi, parla degli argomenti del giorno. Perché non dici questa cosa qua? Perché non parli di quell'altra cosa? Perché non citi quella cosa ancora? Ogni giorno chi fa radio è sottoposto, chi fa radio con l'attenzione e con il feedback, cioè con la risposta immediata del pubblico che lo ascolta, è sottoposto a questo tipo di stress. Quella che è la tua personale sensazione che hai quando ti siedi davanti a un microfono, improvvisamente il mondo per te scompare. Perché? Perché deve scomparire. Se no non faresti radio, se no andresti in televisione, se no ti metteresti davanti a una tastiera e scriveresti qualcosa. Se no andresti nelle pubbliche piazze e arringheresti le folle. Fai radio perché fare radio significa uscire dal mondo. Le nostre uscite dal mondo quotidiane di noi conduttori sono il segnale che voi che ci ascoltate avete l'improvvisa possibilità di avere un rapporto diretto con la realtà, perché noi la realtà la guardiamo, la leggiamo, cerchiamo di conoscerla, ci confrontiamo con la realtà, abbiamo strumenti di analisi della realtà, abbiamo un'esperienza consolidata nell'analizzare la realtà, sia la realtà esterna, concreta, quella di cui vedete storie nei giornali, sia la realtà interiore delle persone che ci parlano. Voi immaginate un conduttore radiofonico che da decenni sta davanti a un microfono e ha sempre fatto trasmissioni con contributo del pubblico. Con quante persone avrò parlato nella mia vita? Non ricordo, migliaia. Con quante persone avrò cercato nell'immediatezza di stabilire un rapporto, perché in pochi secondi, e voi poi direte, ah sì, tronchi sempre le persone, togli loro la parola, non le fai parlare, sì, perché ho poco tempo, perché quando si avvicina la sigla di coda il mio programma finisce, io devo ritornare con i piedi per terra, io improvvisamente devo uscire da questa zona sospesa che fa sì che soltanto con la mia voce, con il pensiero, con i ricordi, con l'esperienza, con quello che ho letto, con quello che ho vissuto, con quello che ho capito, possa fare radio. Permetta a voi di entrare in questa dimensione intermedia. Beh, oggi Radio 24 celebra il suo 18° compleanno, l'avrete già sentito, è una data importante, è una radio giovane ma che comincia già a consolidare comunque un suo rapporto con il pubblico, è una radio che esiste, è una radio a cui sono approdato io, mi sembra 11-12 anni fa, dopo un'esperienza trentennale nella radio pubblica Rai. ero un po' spaventato, mi sembrava di fare un passo in un territorio diverso rispetto a quello della grande mamma Rai, che era il luogo in cui la radio nacque, in cui gli italiani cominciarono a avere questa sensazione di qualcuno che ti racconta il mondo. Mi sembrava di sentirmi fuori, invece ho capito no, che era qualcosa di giovane, qualcosa di molto dinamico, qualcosa in cui ho respirato l'aria di estrema libertà. La libertà che ho sentito davanti a questi microfoni non l'ho mai sentita nei precedenti decenni, in cui c'era sempre qualcuno che ti diceva quello che dovevi fare, o comunque che era sottoponeva al suo vaglio quello che era il tuo pensiero. Beh, questo strumento di libertà questa mattina, visto che festeggia 18 anni, tutti i colleghi oggi galleggiano nel tripudio di comunque dire beh, ce l'abbiamo fatta per 18 anni, speriamo che sia altrettanto possibile andare avanti in un momento estremamente difficile per tutti gli editori e per tutti gli strumenti di narrazione e di comunicazione. Beh, vorrei invitarvi questa mattina a un singolare esperimento. Proviamo a fare radio oggi nel vero senso della parola. Qual è la specifica della radio rispetto ad altri mezzi? L'immediatezza. La radio si può confezionare nel momento esatto in cui si accende, in cui noi ci accendiamo i nostri microfoni. Io vorrei questa mattina chiedere agli ascoltatori, suggeritemi voi il primo passo del filo che ci porterà fino alle ore 13. Io vi seguirò, vi asseconderò, cercherò di mettere a vostra disposizione l'esperienza e il mezzo per farvi sentire partecipi in uno dei pochi mezzi di comunicazione che veramente ancora crea partecipazione. 800240024, aspetto da voi l'inizio. Sono un uccello, sono elettricità. Sì, sono elettricità, sono elettricità, sono elettricità, sono elettricità. Mi basta un attimo per superare i due palazzi più alti della via. Pochi metri e sono su Corso Genova. Vedo l'ottico, la cartoleria, la coloniale. Un po' più in là due banche che fanno angolo con Piazza Cantore. La prima volta che è capitato avevo 11 anni. E l'ho scoperto in modo del tutto casuale. Ero con i miei sul lago di Como. Avevamo deciso di prendere il traghetto che da Bellagio va a Cadenabbia. Io mi ero allontanata, come facevo spesso, e mi ero seduta sul corrimano a prua, con le gambe a penzoloni. A un certo punto il battello ha curvato. Non era nemmeno una curva pericolosa, ma io ho perso l'equilibrio e sono caduta giù. Istintivamente io seguo il filo di quella che è la mia suggestione iniziale. L'uscita alla realtà, l'esperienza straordinaria. Fare radio, vi assicuro, è un'esperienza ancora straordinaria, ve lo dice chi, oltre alla radio, ha fatto anche altre cose nella sua vita professionale. Fare radio ogni volta è una sorpresa. A me sorprende, in questa ultima edizione del mio programma, l'avrete notato, è un programma che è molto affidato all'autorevolezza del contributo del pubblico. Tocco degli argomenti che sembrano laterali, sembrano minimali rispetto al grande flusso delle grandi notizie, di cui per scelta io questa volta non voglio parlare. E immediatamente trovo delle competenze, le competenze del mio pubblico. La capa dell'ostetrica che mi conferma che esiste un'inchiesta aperta tra le sue colleghe, per coloro che assecondano questa pratica del non taglio del cordone ombelicale, quindi c'è qualcosa di nuovo che sta emergendo, mi viene confermato, i tanti segnali di desiderio di secessione nel nostro paese a seguito dei fatti catalani, scopriamo del palo dentro il lago di Garda che divide a metà le aree di competenza dei pescatori delle due singole sponde, della pretesa di Otranto di prendersi tutto il Salento, della pretesa del Molise di prendersi tutta la Capitanata, cose inedite ma vengono fuori proprio dal pubblico. Oggi mi tengo un po' più leggero, parto per astratto. Parto sul desiderio di volare, sul desiderio di astrarsi, di uscire dalla realtà. La radio è anche questo. Se voi ascoltate la radio, comunque avete un'attitudine ad astrarvi dalla realtà, perché mentre l'ascoltate farete senz'altro altre cose. 800240024, dai che ce la fate. Sono decollata senza rendermi conto, nel senso che non percepisco il decollo, percepisco a un certo punto di essere in uno stato di sospensione e mi sono trovata in un quadro di Magritte. Ecco, io invece ho bisogno di un piccolo pendio, di una discesa, di un qualche cosa che mi permettesse di raggiungere una velocità un attimino superiore, e una volta che mi staccavo da terra volteggiavo, volavo, però nei miei sogni non c'è stato mai un rientro, mi svegliavo o mi addormentavo così volando. 800 24 0024. Rappresento forse la follia delle persone che raccontano come sistematicamente hanno un piano di decollo, un piano di volo per astrarsi durante il sonno e essere come dei droni umani. Ieri abbiamo parlato di droni, abbiamo avuto un'infinità di informazioni a tutto il paese di persone che hanno visto droni precipitare, costruiscono droni, sono stati spiati nell'intimità delle fattezze fisiche delle proprie mogli con il drone che le spia quando le signore stanno in topless a prendere il sole. Beh, oggi voglio qualcosa di più. Oggi spiegatemi il sistema di astrazione della realtà, come vi astraete la realtà e voi guardate con un occhio diverso la realtà. La radio è sempre l'occhio diverso rispetto al consueto racconto del reale. Roberto, buongiorno. Buongiorno. A lei cosa capita? A me è capitato sinceramente un po' di tempo fa proprio un discorso del genere, nel senso che eravamo a una cena con gli amici e praticamente parlando, che poi ho appurato lì durante la cena, avevo in compagnia, c'era una ragazza che era appassionata, diciamo, di esoterismo, e raccontando un po' dei sogni. Lei di esoterismo non se n'era mai occupato? Mai, zero, ignorante in materia. Era perfetta, un uomo perfettamente consapevole della propria inclinazione alla razionalità. Sì. E quindi nell'ambito di una cena uno parla, discorre, e praticamente io avevo, diciamo, raccontato un sogno che mi capitava frequentemente, cioè io praticamente riuscivo a vedermi mentre dormivo, e come mi vedevo io potevo girare in casa e andavo in camera di mia madre e mio padre, li vedevo che dormivano, dalla mia sorella vedevo che dormiva. Non era un sogno, era una sensazione reale, realistica? Sì, diciamo di sì, sì. Io la riporto così, diciamo, fra virgolette, in astratto, un sogno, perché per me era accadeva durante la notte, però io personalmente di motivi magari me ne davo tantissimi, perché mi poteva succedere una cosa del genere, o perché ero nel dormiveglia, o perché magari avevo mangiato pesante, visto che ero a una cena, no? E quindi diciamo che mi capitava di girottolare per casa durante il sonno. E questa ragazza mi chiese: ma quanti anni hai? Ho 33 anni. Guarda che è un'età simbolica, è l'età di Cristo, te hai il potere della trasposizione corporale. Sembra un po' una cazzata comunque, detto fra noi, questa cosa qua, però... Ma sì. Sì, vabbè, tanto per dire, si dava un po' di aria di grande fattucchiera, grande conoscitrice. Quindi sì, 33 sì. Anni è l'età di Cristo, a 34 anni non si vola più. No, non si vola più, infatti è capitato più di rado, però comunque sia. Io, se te dai dei poteri esoterici, sarebbe interessante con te fare una seduta spiritica. Io sono sbiancato. Ma com'era questa ragazza? Aveva delle, diciamo, attrattive per lei oppure... No, perché era la compagna di una coppia di nostri amici e quindi erano... Cioè una cosa tre, era come una compagna di una coppia? No, eravamo una compagnia, 6-8 persone, ora bene, sinceramente il numero non mi ricordo, erano... noi uscivamo con i figli e loro si portavano dietro questa, magari la loro, diciamo, medium personale in famiglia, la usavano come una sorta di veggente domestica. Ma quello non lo so se poi loro la usavano e facevano quelle cose là. Comunque loro portavano la medium. Sì, loro praticamente in casa avevano questa medium. Sarebbe interessante fare una seduta spiritica. Facciamola. L'avete fatta? Ho detto sì, poi si farà, e poi una sera l'abbiamo fatta. E come è avvenuto? Dov'è stato questa cosa? In casa. Cioè lei è andato volutamente a casa della medium o la medium a casa sua? Sono andato a casa sua, durante... Allora rifaremo un'altra scena, la scusa per fare un'altra scena, faremo la seduta. E lei ci è andato. E io per me era come fare una cena normale. E chi c'era? E chi c'era a casa della signora? I soliti personaggi. Marito, moglie, lei? Marito, moglie, i figli con cui uscivamo sempre, la coppia dei figli, aveva una figlia... che aveva un fidanzato e un'altra coppia. Vabbè, tutta una famiglia dedita comunque all'esercizio spiritico, mi sembra. Solo lei. Vabbè, questi la secondavano. Vabbè, sì, cosa succede? Avete mangiato tranquillamente, normalmente? Tranquillamente, sì, abbiamo fatto questa seduta spiritica, per farla in breve, con tutti i riti che ci sono prima di iniziarla, ci vuole un santino, ci vuole quello, ci vuole quell'altro, che non me li ricordo. Questo, diciamo, dopo l'ammazzacaffè è cominciata la cosa? Sì, esatto, sì. Giusto per bloccarti la digestione, no? Vabbè, ci hanno sparecchiato, hanno acceso le candele, hanno detto cominciamo. No, abbiamo avuto una luce soffusa, sinceramente. Cioè avete messo uno straccio sopra l'abajur, va bene. Sì, aveva il regolatore, abbiamo soltanto un minimo con regolatore. Ma niente, ma niente di che. Devo dire che non è successo praticamente niente, almeno per quanto mi riguarda me. Lei sentiva, vedeva, parlava, faceva, brigava. Ma cambiava anche voce, faceva voce ispirata. Ma che no. Alla fine qual era il segnale che veniva dall'oltretomba lì? Lei praticamente niente. Lei diceva soltanto che sentiva questa forte energia, queste forti vibrazioni, ma... Le vibrazioni uno le può sentire in tante maniere. Anche perché dopo cena era. E poi finite le vibrazioni, che è successo? Niente. E poi basta, perché insomma la cosa andava per le lunghe, non succedeva niente, quindi uno dava più o meno i motivi per la quale... Ma lei li frequenta ancora questi amici? No, non li vedo più. Dopo questa volta, capito, non era più roba frequentabile. Va bene, la sintesi del racconto del nostro ascoltatore partiva con un slancio sincero all'astrazione, alla poesia, e coltivava questa sua passione tra il reale e l'irreale, questa qua, codificandola in un sistema di bufale abbastanza diffuso, l'ha portato alla seduta spiritica, capito che alla fine non aveva più senso, e passati 33 anni passa anche per lui l'ambizione a volare sopra la realtà. Ma per voi continua tra qualche istante dopo questa pausa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. A quel punto ero in posizione orizzontale e fluttuavo. Da quel giorno ho deciso di mantenere il segreto. Non c'è nulla nel mio modo di volare che mi ricordi un aereo, un aviante, un deltaplano, un parapendio, neanche un uccello. Non ho bisogno di scaldare i motori, non ho bisogno di ali, reattori, tute aerodinamiche, maniche a pipistrello, non ho bisogno nemmeno di avere un corpo eccessivamente affusolato. Quando mi appollaio sul davanzale, il mio cervello è sgombro, immacolato come un foglio bianco senza quadretti, candido come un lenzuolo centrifugato dalla candeggina. Altrimenti queste sono memorie di ascoltatori che ci hanno scritto, proprio dando sfogo a qualcosa di inconfessabile, la loro tecnica di volo, che poi è una tecnica di uscita dal reale, non perché il reale vada rifuggito come qualcosa di negativo, occorre cercare l'estasi, l'astrazione. Il reale va vissuto, va interpretato, va elaborato, ma bisogna sempre avere un sereno distacco dal reale. È molto difficile questo è diventato il tema di questa mattina. Avevo dato uno spunto, lo spunto è stato raccolto, ho tantissime telefonate, adesso farò ascoltare. L'esperienza di avere a che fare con l'umanità ogni giorno in maniera così intensa, perché in fondo è l'anticipazione dell'esercizio quotidiano che voi fate nei social network. Noi che facciamo radio lo facciamo da decenni, prima ancora che inventassero Facebook, Twitter, Instagram. Noi siamo abituati a capire che esiste una rete di persone con delle similitudini, con delle differenze, con delle istanze, con dei caratteri, persone apprezzabili, persone detestabili. Com'è detestabile l'ascoltatore che scrive tutti i giorni immancabilmente, manda il suo SMS, quello lì del culo chiacchierato, sempre lo stesso, tutti i giorni scrive, diventa un personaggio, è contento, potrei fare di lui uno zimbello, potrei chiamarlo al telefono e improvvisamente, come fanno tanti miei colleghi giustamente, farlo parlare, dare un senso della sua incapacità di elaborazione del reale. Anche oggi ha scritto e dice: Nicoletti, ti puoi fare solo radio, non potresti fare televisione, perché sei un cesso a pedali. Una espressione così logora dall'abuso che ne è stato fatto. Che vuol dire sei un cesso a pedali? Cosa lì, una tazza con i pedali sopra? Ma magari esserlo, sarei un fenomeno, girerei il mondo, sarei osservato, andrei al circo. Sarebbe bello essere un cesso a pedali. Poi riscrive: vuoi astrarre dalla realtà? Nicoletti, ti basta cercare un buon pusher. Ancora con questa cosa, che l'unica maniera per astrarsi dalla realtà è drogarsi. Ma io sono la droga di me stesso, la mia droga ogni giorno questo microfono davanti. La droga significa è l'abbassamento, è dai i limiti di pudicizia, di timidezza di vedere la realtà con un occhio disincantato e anche con un occhio attento. Fabio, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Cosa la sorprende? Ma guardi, mi sorprende e noto che nel corso degli anni, io ormai ne ho compiuti più di 60, quando incontro una persona gentile, cioè vado in panificio e buongiorno e nessuno ti risponde, proprio ognuno da farà. Vado in edicola, buongiorno, zero. Cioè, non so, sono io che, cioè, andando avanti negli anni, sto rincoglionendo. Sì, un po' questo sì, questo sicuramente. Questo lo dice un suo coetaneo. Bene, mi conforta. Però le dico sinceramente, la mutazione che è avvenuta attraverso l'accelerazione delle relazioni, attraverso gli strumenti digitali che abbiamo ogni giorno, ha un suo luogo di dileggio poi per le persone come lei e come me, che pretendono il buongiorno. Viene deformato nel buongiornissimo. Il cinquantenne che non, il cinquantenne che non ha strumenti digitali di relazione con gli altri pretende di riportare su un piano ormai diffuso, enorme, frastagliato e soprattutto totalmente privo di quell'empatia che abbiamo nei rapporti quotidiani, il proprio fraseggio quotidiano. Quindi non dice buongiorno, dice buongiornissimo, caffè, e si arrabbia e dice faccio pulizia contatti, mi libro delle persone false, perché non ha capito che il mondo ahimè sta cambiando, forse è il mondo più spietato, può essere che il mondo sia più spietato, dobbiamo conoscerlo e capirlo. Lucia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, intanto auguri per i 18 anni della trasmissione. Sì. Della radio, perché io ammetto questa falla intellettuale, perché non conoscevo questa radio. L'ho conosciuta solo negli ultimi mesi, da quando non vedo più televisione per scelta, e quindi ascolto molto la radio. Lei parte da una scelta astensionista allora. Esatto, io la ringrazio perché mi ha fatto pensare a questo episodio, dato il tema, che mi è successo all'età di 17-18 anni, per cui io ero sul letto in posizione orizzontale e senza che io facessi nulla, all'improvviso perché sento... Sul letto in posizione verticale è un po' più raro starci. No, io ci stavo però quando saltavo sul letto. Si può stare veramente a carponi, si può stare in posizione laterale, normalmente si sta in posizione orizzontale, prego. Sì, era una posizione di riposo. E in quel momento io mi sento levitare in una maniera molto particolare. Io vedo esattamente il mio corpo che inizia ad astrarsi e andare verso il soffitto. E lei dove stava? Nel corpo che volava o nel corpo che stava sul letto? No, io ero nel corpo che stava sul letto. Vedevo e sentivo, secondo la mia, il suo corpo astrale che si sollevava verso il soffitto. Esatto, si sollevava. Quindi lei si vedeva di spalle praticamente. Io sì, esatto. Vedeva le sue spalle. Vedevo le mie spalle, ma soprattutto io mi allargavo, cioè vedevo il mio corpo che si diventava voluminoso al punto che sembrava che volesse scoperchiare il soffitto e le pareti. Cioè come un pallone che si gonfiava. Proprio così, ovviamente lo spavento fu eccezionale. Beh, si è vista ingrassata improvvisamente. Improvvisamente. Però è successa una cosa stupenda. Quando il primo giorno mi sono spaventata e poi... Ah, questo è successo più volte, quindi era ricorrente. Era ricorrente. Dopo la seconda volta, quindi dopo lo spavento iniziale, quindi quando si conosce una cosa poi si ha meno paura. Certo. Io però... La prima volta fa paura, poi uno capisce poi che non succede niente. No, ma perché c'era un ritorno fantastico, e cioè una sensazione di benessere indicibile, una sensazione di libertà, perché io andavo oltre il soffitto. Ma il suo corpo che volava, vedeva, aveva una sua soggettiva, oppure lei vedeva una nuvola sopra di lei che si gonfiava? No, vedevo questa nuvola che si gonfiava, poi avevo... Ma lei ha uno specchio sul soffitto tante volte? No. Domanda. Qualcuno sì, ce l'ha. Ha ragione, ma guardi che io mi sono sorpresa tantissimo. La cosa... Beh, dove è andata a finire poi questo suo pallone? Niente, andava un po' nel cielo e andava, vagava. Ah, quindi vagava. Scoperchiava il tetto, andava oltre il tetto. E lei continuava a mantenere il contatto visivo con il pallone sopra il... Con il contatto visivo fino a un certo punto. E lo vedeva andare via. La cosa che non so dove andasse, la cosa incredibile era la sensazione. Io non potevo muovermi assolutamente, quindi il corpo era pesantissimo, ma la sensazione di benessere, di assoluta libertà, cioè di questo pallone, diciamo, che poi ero io e che vagava per il mondo intero, era eccezionale. Le dico un'altra cosa. Io penso all'epoca... noi uomini che ne abbiamo due di palloni che ci si gonfiano e non possiamo liberarcene. Pensi un po', ha ragione. No, l'altra cosa incredibile è che io all'epoca avevo 17-18 anni, questo è successo per un annetto, perché poi io, non avendo più paura della situazione, ma anzi mi piaceva, io la cercavo. Quindi mi mettevo sul letto e in qualche maniera aspettava, richiamavo. Aspettava, esatto, questa cosa. La richiamavo e quindi... E adesso non lo fa più Lucia, arrivando alla sera? No, perché? Arrivando al dunque, non mi viene, non mi succede. Non le succede, cioè, più? È successo in quegli anni in cui, fra l'altro, e questa è una cosa che prima o poi vorrò scoprire, io avevo l'abitudine molto sana di sfogliare il vocabolario per imparare parole nuove, quindi aprivo così casualmente e trovavo delle parole. E mi capitò una parola, che però io non ricordo più, che spiegava scientificamente questo fenomeno. Una parola tipo metem e qualcosa, non era metem psicosi, ma una cosa... Sarà simile. Ipnagogico forse che questa sensazione... Come? Ipnagogico, lei aveva una sorta di sogno lucido che lei controllava, si chiama il sonno ipnagogico, così dice. Molti artisti in questo stato privilegiato riescono a comporre. Va bene, grazie Lucia, grazie, buona giornata, le auguro di ritrovare il pallone che tanto le piace. Leonardo. Buongiorno Nicoletti, come va? Beh, sono qui a aspettare che qualcuno riempa i miei spazi vuoti. Giusto. No, l'ho chiamata perché il fatto della creatività e del fatto della radio come medium è interessante quello che ha proposto come tema, come dicevo la persona gentilissima che ha preso la telefonata. Mi capita di scrivere più come forma di psicoterapia interiore. Ma gliel'ha prescritta qualche medico o no? Affibbiata da solo? Sì, da solo. Lei fa un diario dove scrive i fatti suoi e si sente meglio. Molto. Non c'è bisogno sempre di trasformare tutto nell'area del patologico. Fa bene, uno fissa gli con appunto, uno, c'è chi lo dice a un microfono, lo fa, ha la fortuna di farlo al microfono, chi lo scrive. Esatto, la cosa strana che accennavo prima al gentile signore è che mi capita spessissimo ultimamente, mentre sto andando avanti col capitolo e dando vita a questi personaggi che sono inesistenti, di sentirli parlare con le voci, diciamo così, degli attori che di solito mi piacciono. E addirittura di notte, siccome soffro abbastanza di insonnia, da sveglio sento le voci che mi parlano. Ad esempio ieri sono arrivato a un punto nel quale uno dei protagonisti si ammala e per tutta la notte... sentiva il rantolo. No, mi diceva che in realtà non voleva morire, non vuole morire. Chi è che vuole morire? Giusto, il kamikaze, nessuno vuole morire. E anche loro sottoposti a una sorta di illusoria visione di un mondo fantastico pieno di vergini pronte a darsi, se no nessuno vuole morire. La cosa strana è che in realtà io non lo voglio ancora far morire, lo voglio far procedere un po' per i capitoli, ma era una ribellione totale. Stia attento perché Misery non deve morire è costata quasi le ginocchia a un povero scrittore che ha trovato una sua fan che non voleva che morisse un personaggio. Vero. Quindi l'aveva catturato, sequestrato, che questo è la mia paura, il mio terrore, l'avrebbe azzoppato e fatto a pezzi purché lui scrivesse il finale come lei voleva. Quindi però è una grande bella cosa, è una sua radio interiore, lei scrive e la sera le riappaiono i personaggi con le loro voci. Un bel trip, devo dire. C'è chi impiega bottiglie e bottiglie per raggiungere questo, lei riesce a averlo soltanto con un po' di inchiostro, quindi la invidio. Alla prossima, tra poco anzi. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Melog. Io ho esperienze di volo spontanee non indotte. Ho avuto queste esperienze, tra virgolette, di volo già dai 7 anni, 8 anni in poi, e la cosa particolare è anche questo, che non accadeva casualmente. Io decidevo di addormentarmi e di volare, e lo facevo immancabilmente. Questo l'ho fatto per moltissimo tempo e con grande anche soddisfazione, dovrei dire. Oggi festeggiamo i 18 anni di Radio 24. Io mi sono incamminato in una sfida con il mio pubblico, avevo dato un piccolo e labile segnale, indicazione di quello che mi sarebbe piaciuto parlare, dell'astrazione, e stanno seguendomi le persone che mi ascoltano, raccontandomi quello che è più difficile raccontare, la propria vita interiore, le proprie inconfessabili esperienze che vanno al di là di quelle condivisibili con gli altri esseri umani. La gente di cosa parla? Ho mangiato, ho bevuto, ho viaggiato, ho fatto l'amore, mi sono arrabbiato, sono stato felice. Difficile parlare di quello che sembra quasi una follia. Infatti il livello di percezione più basso, più banale, più rozzo del pubblico, dice ma tutti ubriachi, toglieteli la bottiglia, dicendo. E altri invece capiscono quello che è il meccanismo di questa trasmissione, ma che in fondo è il meccanismo della radio da quando sempre l'ho fatta. Trovare immediatamente un rapporto di empatia diretta, immediata, con le persone che mi ascoltano e con le quali mi rapporto. Perché? perché loro sono il grande visore, il grande sensore sulla realtà. Io non posso espandermi oltre le anguste mura di questo studio. Voi sì, siete in giro per il mondo, voi potete raccontare. Ogni volta che c'è un episodio che appassiona le cronache, che colpisce l'immaginazione generale, a me non è più sufficiente avere a disposizione quelle che vengono chiamate le fonti primarie, le agenzie di stampa, gli esperti, i colleghi che ne sanno più di me. No, io voglio immediatamente la percezione capillare delle persone che ascoltano. E ancora solo la radio può fare questo tipo di lavoro. Io ogni volta che si presenta l'occasione so che è una grande rete di umanità che, se ben stimolata e se soprattutto capace di mettersi in un rapporto di fiducia, è poi quella che mi racconta esattamente qual è un punto di vista generale, non specifico, non supportato da strumenti professionali su questa realtà. E se oggi riesco a far parlare persone della loro follia di aver volato nel sogno, domani saranno le persone che mi racconteranno esattamente come funziona la loro città, come funziona il loro quotidiano, qual è lo sforzo quotidiano di sopravvivenza, quali strumenti hanno per aiutarmi a decodificare un'infinità di realtà, visto che noi non siamo tuttologi, non abbiamo esperienza di tutto e competenza di tutto, però abbiamo possibilità di indurre le persone con esperienza e competenza a darci un contributo. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, ovviamente buon compleanno. Ascolto. Allora, la mia esperienza è questa, sento la radio praticamente da sempre e ho scoperto col passare degli anni che praticamente è come se volessi immedesimarmi, per esempio, nel conduttore, perché sentendo e risentendo la stessa voce, le sue esperienze, perché il conduttore fa parlare gli altri, ma in realtà anche attraverso le sue domande, un po' parla di se stesso, perché le domande sono anche una scelta di argomenti. Guardi, noi è come se fossimo ormai completamente nudi. Di fronte, soprattutto chi parla da tanti anni si rende conto che non esiste più la possibilità di avere un filtro anche su quello che di se stessi uno non vorrebbe far trasparire. Alla fine si abbandona ogni reticenza, ogni pudore. Siamo esattamente come siamo, è difficile essere diversi. Mi chiedevo infatti se dopo tanti anni, come nel suo caso, ci sia una specie di forma di spersonalizzazione che è la stessa che avviene nel rapporto tra sogno e realtà. A me per esempio è capitato tante volte di riflettere sul fatto che io sono perfettamente consapevole che nella mia memoria quello che io sogno praticamente per me diventa un'esperienza come nella vita reale, perché il centro del cervello che accumula, il famoso centro del Broca se non ricordo male il nome, praticamente io vivo questo sogno come se lo vivessi fisicamente. Beh, guardi, ormai abbiamo, mi capita con la radio. Abbiamo, Giuseppe, delle metafore fantastiche per riuscire a capire e comprendere i nostri meccanismi di percezione, di ricordo, di chiamata in primo piano di quelle che sono le nostre sensazioni, le nostre esperienze. Immaginiamo che abbiamo dei supporti di memoria dentro, come avere una scheda aggiuntiva di memoria dalla quale possiamo subito e immediatamente richiamare dei dati in superficie ed usarli. Facciamo esattamente questo, sulla spersonalizzazione. Non è che siamo spersonalizzati, siamo privi ormai di quelle reticenze che si hanno negli strumenti di gestione dei rapporti con gli altri esseri umani. Noi abbiamo delle ritualità, dei sistemi di rendere il rapporto con gli altri un rapporto per noi proficuo, nascondendo le cose, amplificando le altre. Alla radio diventa un po' difficile, insomma, ve ne accorgete subito se noi prendiamo in giro. Tamara, buongiorno. Buongiorno, volevo riportare la mia esperienza legata ad oggi, cioè quello che più mi fa volare è proprio poter sentire la radio, è qualcosa che non ritrovi poi nel quotidiano. La bellezza la ritrovo tra l'arte in generale, quello mi fa volare, la musica, un bel film, un buon libro, quello mi fa davvero volare. È assurdo perché fa parte comunque di un reale, ma è più una rilettura, secondo me, e che mi permette di volare. Sì, da conduttore del fondo ci stiamo un po' perdendo nell'astrazione. Alla radio è importante portare un'esperienza diretta, concreta, non si interpreta, perché se uno di voi diventa un interprete e cerca di fare un esegesi quello che dice, la radio diventa noiosissima. Comunque prendo per buono il fatto che lei associa la radio a un desiderio di evasione. Mi serve di ride, ma non c'è rimasta male. No, non ci sono rimasta male, no. Sì, un po' sì, perché sento. per me è un'evasione, sì, cioè non è evasione, è proprio alcune volte è proprio volare, uscire fuori da tutto ciò che è il quotidiano. Allora, la radio riesce a darti l'impressione di essere dentro il grande gioco della vita, senza necessariamente essere coinvolti con tutta quella forma di livore profondo che può avere chi si sente investito della grande autorevolezza del fatto che ha un profilo su Facebook, un account su Twitter, e quindi può dire qualunque cosa in qualunque momento. Beh, oggi abbiamo fatto radio senza aver necessariamente bisogno di parlare noi stessi, di parlare della radio. Alla prossima.